Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e benvenuti alla nuova puntata dedicata alla lettura del romanzo Ex Tenebris, un capitolo alla volta. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di come è nato il fascino per il fantasy, il mio perlomeno, in un periodo in cui questo sembrava una scelta politica più che un gusto personale. Oggi mi fa piacere parlarvi del come sono arrivata alla mia versione di fantasy. Chiunque abbia letto anche solo un mio romanzo potrà pensarne quello che vuole, bene o in male, ma certo non può dire che io abbia in qualche modo scopiazzato i grandi classici. Essere originali in un genere particolare come il fantasy è una questione di equilibrio. Si cammina sul filo del rasoio, dovendo allo stesso tempo intrigare il lettore con una proposta di topoi classici, ma anche non frustrarlo con una banale copia e incolla. Da questo punto di vista, forse io ho avuto la fortuna di aver scritto i primi tre romanzi di Nocturnia prima che fossero pubblicati, o soltanto letti da qualcun altro all'infuori di me. Questo mi ha dato il vantaggio di non dover piacere ad altri che a me stesso, dunque non dover riflettere troppo sull'originalità o meno della storia, seguendo solo l'istinto. Da quel momento in poi l'ossatura era stata costruita e dunque una volta che ho iniziato ad avere il feedback, positivo per fortuna del pubblico, la direzione era già intrapresa. Ovviamente a qualcosa mi devo essere ispirato, non ho la pretesa di essere così originale da non avere fonti di ispirazione. Ne ritengo che sarebbe stato sano non averne. Una persona che non ha mai masticato, per così dire, un genere, difficilmente può proporre una storia che risulti gradevole a chi quel genere lo ama. Questo è tanto più vero per il fantasy. Bene, ho avuto più volte il modo di dire che il mio modello principale, non tanto per la tipologia di protagonisti quanto per l'ambientazione, è stato Robert Erwin Howard con il suo Conan 10 e media. Lo ribadisco, il mondo creato da Howard è popolato solo da uomini e da creature, spesso generate dalla magia oscura. Non ci sono elfi, nani, goblin o troll, solo uomini, anche se a volte talmente deformi da risultare riconoscibili. Altra fonte di ispirazione sono stati i giochi di ruolo, in particolare uno, chiamato Dragon Quest, che conobbi nei primi anni 80, molto poco conosciuto perché piuttosto difficile e lento da giocare. In esso però ho trovato la divisione della magia in collegi, da me rinominati confraternite. Ce n'erano molti di più che i soli negromanti, maghi neri ed evocatori, ma a me piacevano questi tre. Ultima, ma non ultima, fonte di ispirazione. La musica heavy metal, ebbene sì, genere nato e giunto all'apoteosi negli anni 80, è stata la colonna sonora della mia adolescenza. Ma assieme ai suoni potenti e ai ritmi martellanti, l'heavy metal veniva accompagnato da un'iconografia horror fantasy che a volte sconfinava nel satanismo puro. Se vi andate a vedere le copertine degli album di gruppi come gli Iron Maiden, Manowar, Mercyful Fate, Manila Road, Metal Church, Venom, Slayer e dozzine di altri, non vi sarà affatto difficile capire come quelle copertine, tra l'altro della grandezza di 33 giri, quindi molto più grandi dei CD, studiate da me nei minimi particolari, potessero influenzare la fantasia di un adolescente. Ok, anche per oggi abbiamo finito. Possiamo passare alla lettura del nono capitolo del romanzo. Un ringraziamento e un saluto agli ascoltatori di Radio Big World. Capitolo 9. L'oscurità è così densa da colare come resina giù dagli alberi. Scivola sulle pietre, si insinua tra le crepe del terreno, striscia su per le gambe di Diana. La ragazza rabbrividisce e si avvicina a Tom, che dorme accanto a lei. Ha paura e freddo, tanto freddo. Nelle ultime notti è riuscita a recuperare un po' di forze, ma stavolta teme di non farcela. La debolezza la sta sopraffacendo, si impadronisce di lei e la trascina verso il terreno che è gelido. Sembra la voglia seppellire viva. Tom è così premuroso che lei vorrebbe sopravvivere anche solo per non deluderlo. Ma stanotte non ce la fa. Le tenebre premono su di lei e dentro di lei. Il dolore al ventre ha ricominciato a pulsare, a ringhiare come un animale in gabbia. Gratta all'interno, infilando degli artigli affilati nello stomaco. Diana chiude gli occhi di nuovo, tentando di riprendere il sonno, quando avverte una presenza accanto a lei. Una mano le tocca il ventre e un'ondata di calore le invade il corpo. Il dolore si attenua, sbiadisce piano piano, diventando trasparente. Socchiude gli occhi per vedere chi le sta portando sollievo, chi la sta salvando. Nel buio distingue appena una figura scura e non la riconosce, ma le sue mani spargono una tenue luminosità verde pallido. Diana non riesce a muoversi come vorrebbe, non riesce ad avvicinarsi per vederla in viso. Le mani si muovono lente, sembrano afferrare qualcosa. Filamenti neri sottili come fumo le escono dal ventre seguendo i movimenti delle dita. Più essi vengono fuori e più il dolore si attenua. Alla fine le mani si allontanano e lei si sente spossata, ma non rabbrividisce più. La figura sparisce nell'oscurità e diventa ombra nell'ombra. Diana si addormenta, sente che sopravviverà un altro giorno. Appena furono in grado di vedere, i tre ripresero il cammino di Gran Lena. Diana si appoggiava a Tom di tanto in tanto, ma appariva in grado di sopportare quel passo. Sembrava che il riposo notturno la ritemprasse molto più di quanto non riusciva a fare per Tom, che invece si svegliava sempre molto stanco. In fondo, meglio così. Stavano procedendo nel fitto della selva da qualche ora, quando sentirono distintamente un richiamo venire da sopra le loro teste. Arla fece segno di fermarsi in silenzio. Il richiamo si ripeté. Era un verso stridulo, simile a quello di un enorme uccello rapace, che volteggiava sopra le loro chiome contorte degli alberi intorno a loro. Imitarono la donna che si acquattò ai piedi di un tronco gigantesco, poi rimasero immobili. Cercarono di scrutare in alto, attraverso la bruma che aleggiava sulle loro teste. All'inizio non videro nulla, era come se il grido stridulo fosse incorporeo. Poi un brivido di terrore percorse le loro schiene. Un essere umanoide volava formando un grande cerchio che aveva il suo centro più o meno sopra di loro. Le grandi ali membranose sorreggevano senza sforzo il suo peso e sembrava che le utilizzasse per planare sfruttando il vento in quota. Il suo corpo era di colore grigio scuro e aveva mani e piedi artigliati. Le zanne che spuntavano dal piccolo muso erano lunghe e affilate, di colore avorio e dall'aria letale. Un incubo, sussurrò Arla. È un demone delle legioni di Shaltul, forse in perlustrazione. Come se avesse potuto percepire da distanza la vibrazione della sua voce, il demone virò bruscamente verso il basso, sfiorando gli alberi. Paralizzati dal terrore, i tre non potevano far altro che addossarsi ancora di più al tronco e sperare che gli occhi gialli dell'essere non potessero scorgerli tra l'entrico dei rami. Potevano sentire distintamente lo scricchiolare della pelle rigida, come cuoio antico, che ricopriva le lunghe ali simili a quelle di un enorme pipistrello. Un gelo improvviso li avvolse. Era come se quell'essere fosse in grado di assorbire il calore che lo circondava. Le sue zampe sfiorarono i rami più alti dell'albero ed essi si ricoprirono all'istante di brina. Quando il freddo li aveva quasi paralizzati e le loro narici erano invase dal lezzo acre del demone, sentirono dei richiami striduli provenire da un po' più lontano. L'incubo flette le ali salendo di una decina di metri di quota e dopo pochi istanti venne raggiunto da un suo simile, poi da un altro. Nel giro di qualche minuto un gruppo di una dozzina di demoni si riunì lanciando versi striduli e gesticolando. I tre non capirono cosa si stessero dicendo, ma il risultato fu il primo incubo smise di guardarsi soprattutto attorno e di annusare l'aria. Virarono all'unisono e in pochi istanti sparirono dalla loro vista. «Non avevi detto che qui siamo nel dominio dei gromanti?» chiese Tom, senza avere il coraggio di muoversi e continuando a parlare sottovoce. «Quel demone ci doveva aver sentito fiutato. È stato un colpo di fortuna che siano arrivati gli altri a portarlo via». «È così, infatti», rispose Arla pensierosa. «Sembrava una pattuglia in perlustrazione. Può darsi che ci sia una battaglia di più a qualche giorno». «Una battaglia?» fece eco Diana. «Forse si può rivelare una fortuna», ammirò la donna. «Fortuna? Pensi davvero che sia una fortuna capitare nel bel mezzo di una battaglia?» Tom non riusciva a credere le proprie orecchie. Arla doveva essere impazzita. «Se combattono, forse sono meno attenti a guardarsi alle spalle», rispose lei, alzandosi e scrutando gli alberi loro attorno. «Faremmo bene ad allungare il passo ed allontanarci da qui. Il confine è molto vicino. In ogni momento possiamo incontrare pattuglie di entrambi gli eserciti». Tom e Diana annuirono. Erano stanchi, ma ripresero la marcia a passo sostenuto. Quel giorno non fecero altri incontri. Arla sembrava conoscere molto bene la selva Atra e li guidava senza esitazioni. Tom non poté che ammettere con se stesso che se non l'avessero incontrata sarebbero andati molto più lenti e con ogni probabilità si sarebbero persi. La notte passò tranquilla. Tom e Arla si alternarono nei turni di guardia e quando la luminosità tornò ad aumentare, Diana stava di nuovo meglio. Ripreso la marcia dopo aver sbocconcellato della frutta in sapore che la donna distribuì loro. La raccoglieva durante il giorno quando trovava qualche cespuglio non completamente spoglio e la riponeva in una sacca che portava sempre con sé. Dopo un paio d'ore di cammino, Arla fece di nuovo un gesto per fermarli e istintivamente Tom e Diana alzarono gli occhi verso l'alto. Temevano di vedere apparire la sagoma di un demone sopra la loro testa. Invece, lei fece segno di acquattarsi e si sporse appena da un cespuglio per scrutare qualche cosa. Dopo qualche istante sentirono delle voci gutturali provenire da oltre gli alberi dietro i quali si erano nascosti. Quella donna aveva l'istinto di un animale selvaggio. Anche Tom si sporse per cercare di capire chi fossero quelle voci, scansando dei rami. A una ventina di metri dalla loro posizione c'era un sentiero di terra battuta che si insinuava tortuoso tra gli alberi. Una dozzina di carri stavano arrancando lenti l'uno dietro l'altro, trascinati da animali scheletrici. Un fetore di marcio aleggiava su di loro, arrivando a ferire le loro narici. «Che cos'è questa puzza?» chiese sottovoce Tom, portandosi una mano al naso. «Quei carri trasportano le truppe dei necromanti», disse Arla. Tom e Diana la guardarono interrogativi. «Cadaveri», disse senza trattenere una smorfia di disgusto. «Vengono richiamati in vita per combattere le battaglie di Vama. Una parte dei suoi guerrieri viene risvegliata dalle catacombe e si sposta con il resto dell'esercito. Altri, come questi, vengono raccattati qua e là all'ultimo momento e vengono usati solo in caso di necessità, raccogliendo le armi dei loro compagni caduti sul campo di battaglia». Tom non chiese alla donna come si potesse uccidere un guerriero già morto. Non era sicuro di voler ascoltare la risposta. D'altra parte, immaginava che il demone che aveva visto il giorno prima e i suoi simili avessero poteri in grado di eliminarli. «Cosa facciamo ora?» chiese invece. Il lezzo di morte e decomposizione era insopportabile. «Aspettiamo», rispose Arla, alzando le spalle. «Non sono molti carri, non avrebbe senso allungare la strada passando da un'altra parte». Si diresse acquattata verso un albero che distava una decina di metri da loro. Allungò il braccio e staccò delle foglie da un ramo, poi tornò indietro. Le strofinò nelle mani, le porse a Tom e Diana. «Foglie di peltoriana, tenetele vicino al naso», disse mostrando loro come dovevano fare. «Hanno un profumo gradevole e i silvani lo usano per disinfettare le ferite. Impediranno che vi prendiate qualche malattia». Attesero che i carri percorrossero lenti il sentiero, tenendo le foglie vicino al naso, inspirando il profumo pungente che emanava dalla loro superficie. Si stavano apprestando a proseguire il cammino quando una buca fece sobbalzare l'ultimo carro prima che uscisse dalla loro vista e qualcosa cadde a terra con un tonfo sordo. Si immobilizzarono di nuovo, temendo che qualcuno tornasse indietro a raccogliere quello che era caduto. Mentre erano fermi in attesa, accadde l'imprevedibile. Un lamento si levò dal fagotto di stracci che era a terra e ne uscì una mano. Arla osservò in silenzio la scena, poi, accertatasi che nessuno era tornato indietro, cominciò ad allontanarsi. Si girò quando vide che né Tom né Diana lo seguivano. «Allora?» chiese infastidita. «Dobbiamo attendere la prossima carovana?» «C'è una persona ancora viva lì», rispose Tom. «Forse ha bisogno di aiuto». «Non mi sembra una buona idea fermarci qui. Potrebbe arrivare qualcuno da un momento all'altro e non ci serve un altro moribondo». Tom la incenerì con lo sguardo e si diresse verso il fagotto, avvolto dagli stracci come un rozzo sudario. C'era un giovane in apparenza poco più grande di Diana. Aveva una ferita alla spalla e teneva abbracciata una spada di buona fattura. Tom aprì gli stracci sudici di sangue rappreso e versò un po' di acqua dall'otrade sul viso del ragazzo. I suoi occhi si aprirono e illuminarono il volto pallido come due lampi turchese. «È vivo!» esclamò Diana, che nel frattempo l'aveva raggiunto. «Tra poco non lo sarà più», le disse Arla, tagliente come una lama. «E se rimaniamo qui non lo saremo neppure noi». «Dobbiamo aiutarlo!» La voce della ragazza era debole, ma lasciava trasparire una decisione che stupì Tom. L'uomo prese in braccio il giovane, ignorando le proteste di Arla, e lo portò nel folto della selva. Qui lo liberò dagli stracci insanguinati e tentò di levargli dalle mani la spada che continuava a stringere con le poche forze che aveva in corpo. Smise all'istante quando vide che lo sforzo per rimanere aggrappato all'arma gli aveva fatto ricominciare a sanguinare la ferita. «Il taglio non sembra profondo», osservò scostando i lembi strappati della camicia. «Probabilmente basta pulirlo e fasciarlo». Arla dovette annuire, suo malgrado. Smise di guardarsi nervosamente intorno e diede un sacchetto di erba essiccata a Tom. «Mettici questa sopra», disse, «aiuterà a cicatrizzare». Mentre Tom faceva quello che gli aveva detto, la donna mise una mano sotto il mento al ragazzo e gli girò il bel viso verso di lei. Gli occhi turchesi lampeggiavano di nuovo nella semiscurità che li circondava. «Chi sei?» chiese brusca. «Che ci facevi nella carovana dei cadaveri?» «Io», rispose esitante il ragazzo, guardandosi attorno e soffermando lo sguardo per qualche istante su Diana, che lo fissava attenta. «Il mio nome è Eliel. Credo che abbiano pensato di avermi ucciso come hanno fatto con tutto il resto della mia famiglia». «Da dove vieni?» Arla non cambiò il suo tono inquisitorio. «Non ci sono villaggi nella selva, a parte gli insediamenti dei silvani. E di certo non sei un silvano, non con quegli occhi e quel nome». «La mia gente vive a nord-ovest. Lo riguardo del ragazzo sembrava la cosa più pura che potesse esistere in quel mondo tenebroso. Siamo nomadi e ci teniamo a distanza dalle catacombe dei necromanti. Purtroppo la siccità quest'anno ci ha costretto a venire a sud per trovare pascoli per il nostro bestiame. Ci hanno sorpreso una notte e hanno sterminato tutta la mia famiglia. Io ho preso una spada di mio padre dalle sue mani quando è morto sotto i miei occhi». Tom posò una mano tra i capelli color paglia quando il ragazzo interruppe il racconto con un singhiozzo e una sorta di carezza e di incoraggiamento. Gli sembrava un altro pulcino spaurito e ferito, al pari di Diana. «Va bene, Ariel, basta così. Adesso hai bisogno di riposare», disse, fulminando con lo sguardo Arla, che aveva intenzione di continuare l'interrogatorio. Si alzò dopo aver fatto sdraiare il ragazzo, afferrò per un braccio la donna e fece segno a Diana di raggiungerli. Si fermarono a una decina di metri da Eliel, una distanza sufficiente perché lui non li potesse sentire. «Ora che l'abbiamo curato, lo lasceremo qui», sentenziò Arla prima che Tom potesse proferire parola. «Non ho mai sentito parlare del popolo di cui dice di far parte. Per quello che ne so, potrebbe essere una spia dei necromanti». «È solo un ragazzo», rispose Tom, tentando di farlo ragionare. «Ha solo un anno o due più di Diana, e la sua famiglia è stata sterminata. Come pensi che sopravviva qui nella selva Atra? E poi non ha senso che sia una spia. Se i necromanti sapessero che noi siamo qui, potrebbero catturarci con facilità, non pensi?» «Non possiamo portarlo con noi», insistette Arla. «È ferito e ci rallenterebbe». «Non più di quanto ci rallenti Diana. È comunque più rischioso lasciarlo qui o portarlo con noi. Se i necromanti lo trovassero, potrebbero domandarsi chi lo ha curato. E credo che troverebbero il modo per farselo dire». «Potremmo...» Le parole morirono in gola alla donna quando incrociò lo sguardo di Diana. «No, forse neppure Arla avrebbe avuto il coraggio di ucciderlo». A noi suo malgrado, senza nascondere un gesto di stizza. Era stabilito. Eliel sarebbe andato con loro fino alla fortezza della solitudine. Il generale Ustia scrutò l'orizzonte dalla torre di avvistamento che sorgeva sulle ultime colline prima della piana desolata. Lo sguardo torvo del comandante, in capo dell'esercito dei necromanti, si posò sulle nubi nere che avvolgevano i colli di fronte a loro, dalla parte opposta rispetto alla pianura. Nemmeno la sua vista sovrumana riuscì a oltrepassarle. Gli evocatori stavano coprendo le loro mosse. Chinò la testa verso il basso. Sotto di lui c'era l'esercito di Vama, migliaia di risorti che i poteri necromantici degli accoliti del Signore dei Morti avevano tratto dalle loro tombe e armato. Erano immobili come marionette senza fili, e così sarebbero rimasti fin tanto che lui e gli altri membri della confraternita non avessero ordinato loro di attaccare. Poco distante c'erano centinaia di fatue che ondeggiavano vaghe, svanendo e riapparendo di tanto in tanto. Una dozzina di prigionieri ancora vivi erano stati gettati tra di loro, e il suono melodioso delle voci delle più affamate si levava a intervalli regolari. I demoni non le temevano, ma la tattica di Ustia era quella di inviare dietro linee nemiche per sorprendere qualche evocatore isolato. In gruppo, esse avevano abbastanza forze per sopraffare i meno potenti e ucciderli. Più in là, gli spettri formavano una gigantesca barriera opalescente che gli impediva di vedere oltre. Anch'essi erano immobili, forme evanescenti prive di volontà, in equilibrio tra il mondo e l'oltremondo. Una volta eseguito il rituale d'imperio, si sarebbero scagliati su chiunque si parasse loro di fronte per stringere un abbraccio mortale e trascinarlo nella loro strada verso il reame della morte. Due dozzine di ombre avevano il compito di riferire quanto vedevano a Vama. Il terrore che inducevano negli altri necromanti era tale da rendere inutile ogni forma di minaccia personale da parte del Signore dei Morti. Ogni sbaglio, ogni codardia sarebbero stati riferiti e puniti. Ustia strinse i denti fino a farli stridere. Odiava Rordu e le sue ombre, ma non osava neppure pensarlo quando essi erano vicini a lui. Sembravano leggere i suoi pensieri, e non era detto che non lo facessero davvero. La battaglia si avvicinava, e benché sapesse che non sarebbe stata quella la finale dell'interminabile guerra del buio, si rendeva conto che avrebbe potuto essere l'ultima che lui combatteva nei panni del comandante supremo dell'esercito di Vama. Se fosse morto tra gli artigli di un demone, la prossima battaglia avrebbe potuto combattere tra le file dei risorti immobili sotto di lui. Sapeva che Shaltun non si sarebbe fatto alcun scrupolo. Rabbrividì. Anni di necromanzia non potevano prepararlo ad accettare che una volta che fosse diventato anche lui carne morta non avrebbe terminato di servire il suo padrone. Il solo pensiero che il suo corpo putrefatto non avrebbe avuto pace, ma sarebbe stato sottoposto ai rituali di risveglio e che alla sua fronte sarebbe stato inciso il simbolo della sottomissione, lo scacciò. Si ripeté che quello successivo sarebbe stato un giorno di gloria e che lui avrebbe condotto l'esercito di Vama al trionfo. Una formazione di incubi scese veloce dal cielo e atterrò di fronte a Inroth. Il consigliere di Shaltul era anche il sovrintendente delle strategie di guerra del suo esercito e coordinava i generali. I demoni si affrettarono a ripiegare le ampie ali membranose e a genuflettersi di fronte a lui. «L'esercito di Vama è schierato», disse con voce aspra uno degli incubi. «Non abbiamo potuto avvicinarci per studiare i suoi movimenti delle sue truppe perché siamo stati intercettati da una formazione di spettri». Inroth annuì. Mai come in quell'occasione era disinteressata alle tattiche dei necromanti. Non erano molto originali del resto. La loro forza erano le migliaia di risorti che costituivano il grosso delle loro truppe. Poco forti individualmente, ma molto difficili da fermare. Loro non avevano la possibilità di schierare un numero simile di demoni. Sarebbe stato impossibile controllarli tutti in contemporanea. Si sporse dal terrazzamento dove si trovava. Sotto di lui, nascosto da nubi neri come l'inchiostro, si stendeva l'esercito di Shaltul. Centinaia di mastini degli abissi erano confinati dentro enormi recinti magici, all'interno dei quali davano sfogo i loro istinti azzannandosi e sbranandosi a vicenda. Le abiezioni, giganteschi demoni a forma di rettili con due massicce teste sormontate da corna, agitavano la lunga coda coperta di scaglie e iscrizioni ossee, restie ai comandi degli evocatori che dovevano guidarli in battaglia. Quella era la sorpresa che Inrot aveva in serbo per Vama. Una dozzina di abiezioni, veloci ben oltre il loro aspetto, potevano gettare lo scompiglio tra i ranghi dell'esercito di risorti e disperderne la compattezza. Stormi di incubi volavano sopra di loro in strette formazioni a punta di freccia. A loro era destinato il compito di veloci incursioni per fiaccare il nemico, per tentare di giungere alla sua retroguardia. L'attenzione di Inrot venne attirata da urla di terrore che provenivano dalle sue spalle. Due evocatori stavano trascinando nella sua direzione una donna incatenata. Fece un cenno e i due si diressero verso una larga pietra piatta. La donna, in preda a una crisi isterica incontrollabile, si dimenava come una serpe impazzita, rendendo arduo il compito di tenerla ferma. Inrot si diresse verso di loro e osservò la donna, che non smetteva di rincolarsi. Fece un gesto con la mano e all'improvviso ogni movimento cessò. Era come se la donna si fosse improvvisamente paralizzata. Solo gli occhi si muovevano qua e là, spalancati e terrorizzati. Inrot sorrise, gelido. Trasse dalla cintura una corta daga e pronunciò delle parole sottovoce, socchiudendo gli occhi. La lama scintillò di gelida luce color cobalto. Lo sguardo dell'evocatore incrociò quello sgomento della donna e per un istante lui si nutrì del suo terrore. Poi la daga compì un corto arco ed entrò nel suo petto senza incontrare alcuna resistenza. Inrot pose le mani a coppa e lasciò che si riempissero dei lenti fiotti di sangue che rifuoriuscivano dallo squarcio che aveva aperto. Le portò alla bocca e sorbì a sorsi l'ultima scintilla di vita della donna. Poi l'abbandonò riversa sulla pietra, sulla quale si andavano formando sottili rigagnoli rosso carminio. Sentiva la sua forza vitale rinfondergli di energia che gli sarebbe servita per controllare le regioni demoniache della battaglia. Ora era tutto pronto. Le colonne di fumo che si alzavano nel cielo antracite e l'intensa puzza di bruciato e di putrefazione che aleggiava nell'aria non erano affatto un buon segno. Arla, maledicendo fra sé la perdita di tempo causata da Diana ed Eliel, si era allontanata in perlustrazione intimando loro di non muoversi e di tacere. «Che cosa pensi che siano tutti questi falò?» chiese sottovoce Diana a Tom. «Stanno dando fuoco alla foresta?» «Sono le truppe di Vama», rispose Eliel, quando Tom alzò le spalle senza dire nulla. «Il carro dal quale sono caduto era diretto al fronte, che, a quanto pare, dista solo un miglio o due da qui». «Questa non ci voleva», disse Tom, domandandosi a sua volta se avessero fatto bene a prendere anche un ferito con loro. Quando Arla ci aveva detto che c'era una battaglia in vista, speravo riuscissimo a passare prima che gli eserciti fossero schierati. Forse dovremmo tentare per un'altra strada. Non ci sono altre strade, lo interruppe la voce stizzita della donna che sbucò all'improvviso dietro un albero. Da qui alle catacombe, qualche centinaia di miglia a ovest, la selva brulica di necromanti e delle loro creature. Allora non abbiamo speranze, mormorò tra tessoni. Tom. Ci accampiamo qui, disse Arla, togliendosi la spada dalla cinta e piantandola a terra con rabbia. Alla prima occasione cercheremo di passare oltre le linee dell'esercito dei necromanti. La battaglia è prossima e non escluderei che già domattina cominciano le prime schermaglie. Con un po' di fortuna magari domani notte potremo tentare una sortita. Perché non stanotte? Chiese Liel lanciando uno sguardo candido. Non è rischioso attendere qui dove potremmo essere scoperti da un momento all'altro? Un esercito prima di una battaglia è una freccia incoccata. Ogni piccolo rumore, ogni fruscio può farlo scattare. Quando i necromanti saranno spostati per la battaglia e il loro esercito decimato, sarà più facile scivolare le loro spalle. La donna lanciò uno sguardo apertamente ostile nei confronti degli Eliel. Sin dall'inizio non aveva accettato che il ragazzo si unisse a loro e aveva preso quasi come un affronto personale il rapido miglioramento della sua ferita. «Se non ti piace il mio piano, puoi tornarti a unirti all'esercito di Vama. Il fetore ce l'hai già addosso», gli disse in tono di sfida, scoprendo i denti in un sorriso che sembrava un ringhio. «Porta rispetto per i cadaveri dei miei parenti, dei quali ho ancora addosso l'odore», intimò lui, con gli occhi turchesi sgranati dall'offesa, ma con la voce stridula di un bambino. Sembrava un cucciolo di fronte a una leonessa. «Tu puzzi di tradimento, oltre che di cadavere», Arla sputò a terra. «Ma io ti tengo d'occhio e ti le regalerò qualche dito d'acciaio in petto appena sbagli una mossa». Accompagnò la minaccia tirando fuori per metà il lungo coltello che portava alla cintura. Eliel sbarrò gli occhi e deglutì, ma non replicò. Arla infilò di nuovo dentro la lama. «Basta così», interrompe Tom. «Qui non ci sono traditori. Faremo come hai detto, attenderemo la prossima notte e nel frattempo ci riposeremo e ci alterneremo nei turni di guardia».